con mi gente, niente va bene. Invece altro che la vita, sembra che mi sia riuscita. E lei, che quando arriva, mi toglie il fiato come fa una diva, che mi tiene sotto effetto, guardandomi dall'angolo del letto. Parla come un'attrice che prima o poi mi prende nel suo film, ma quello che mi dice è solo per tenermi chiuso qui. Questa volta glielo dico sì. Ciao. Svegliarmi tutto solo lì al mattino, con te vicino, sul comodino. E quindi, quindi ciao, ciao, ciao, ciao, e arrivederci. In giro si respira quest'aria nuova e fresca che mi attira. E questo, quel che sento, non sempre tu che invece dai il tormento. La ruota è sulla strada e vado ovunque vada.